del Parlamento o probabilmente anche dal Ministero del Tesoro. Non so bene che strada dovrebbe prendere, ma se ne è tornata a parlare. Allora, lo aveva promosso Federica Rossi Gasparrini, presidente di Donne Europee Federcasaling. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Ci può confermare questa notizia? Sì, dopo votato e diventato legge nel 2007, adesso nel 2010 è approdato alle commissioni Camera e Senato Finanze per l'ultimo parere. Dovrebbe essere messo entro il 22 febbraio. Già ieri è stato discusso in Commissione Finanze. Sono cose sempre molto veloci, quindi dovremmo essere addirittura d'arrivo. Sì, molto veloci per modo di dire, visto che è da 3 anni che praticamente lo abbiamo così in sospeso, per cui l'importante è che in ogni caso si arrivi ad un risultato concreto. Mi chiedo, Presidente Gasparrini, questa è una sua iniziativa, come lo aveva concepito questo fondo? Speriamo che non venga stravolto e soprattutto, qualora diventasse operativo, come si accavallerà con tutte le altre iniziative già in pista da parte del sistema bancario? Insomma, qual era l'obiettivo di questo fondo? Partirei da un concetto importante, che è quello che questo introduce, essendo legge, un diritto del cittadino. Compro la casa, non ce la faccio a pagare, posso chiedere una dilazione, è un mio diritto. Questa dilazione è gratuita perché il costo notarile di abbattimento degli interessi che nell'intermezzo crescono va a carico del fondo di solidarietà, quindi la differenza rispetto alle iniziative che comunque vanno apprezzate delle banche, questo invece è un diritto generale, un diritto in più di cittadinanza. Secondo me il valore è questo. Ecco, però c'è anche un fondo in termini, diciamo, economici stanziato, 20 milioni di euro se non sbaglio, che dovrebbero coprire che cosa? Appunto, quando un cittadino chiede e ottiene una dilazione del pagamento di 18 mesi, ci sono dei costi e questi costi vengono pagati dal fondo, quindi non ci sono costi aggiuntivi di nessun genere per il nucleo familiare. Diciamo che teoricamente anche la moratoria dei mutui non prevede oneri ulteriori a carico delle famiglie che già in difficoltà chiedono la dilazione del pagamento. I costi che il sistema bancario li carica. Diciamo questo, che penso che il concetto sia per il sistema bancario che una volta che parte questo fondo pubblico, fondo dello Stato dovuto da legge, potranno chiedere i soldi cittadini a questo fondo di solidarietà. Quindi la mia sensazione è che sia stato fatto per essere un evento parallelo. Il fondo delle banche, un favore verso chi è in difficoltà, ma certi costi poi andranno ad essere chiesti al fondo che sta per nascere. No, tra l'altro sicuramente non appena si concretizzerà lo metteremo indubbiamente a confronto con l'iniziativa dell'ABI nell'ambito del piano famiglia. Allora, la moratoria dell'ABI, io torno comunque ancora a fare un confronto con quella, Presidente Gasparrini, prevede di poter sospendere il mutuo alle famiglie che ne fanno richiesta, che hanno un reddito imponibile non superiore ai 40.000 euro e che hanno subito fra il 2009 e il 2010 una grave perdita, un licenziamento, cassa integrazione o un lutto in famiglia che evidentemente ha ridimensionato il budget della famiglia e quindi anche la parte destinata al mutuo. I requisiti invece eventualmente per usufruire alla sospensione delle rate secondo il vostro fondo di solidarietà quali dovrebbero essere? Sono più o meno le stesse, quindi perdita del posto di lavoro, morte o non autosufficienza di un componente del nucleo familiare, spese mediche e in più spese per interventi edilizi, questo è importante, e l'aumento eventuale abnorme per gli interessi del mutuo. La differenza tuttavia, per il momento lo accettiamo così, è che il fondo pubblico interviene per redditi fino a 30.000 euro l'anno, il fondo delle banche fino a 40.000. E poi c'è anche il limite di spesa per la casa che non deve superare, secondo il vostro fondo, i criteri del vostro fondo, 250.000 euro. Esatto. Io continuo a chiamarlo ancora vostro fondo, Presidente, perché lei ne è stata promotrice. È un fondo pubblico. Sarà gestito da una società interamente pubblica collegata col Ministero del Tesoro. Esatto, tra l'altro ne parlava anche in questi giorni, proprio ha scoperto che sta per essere riesumato questo fondo, un collega che segue lingue sempre mutui per Il Sole 24 Ore Maximilian Cellino e ha anche già anticipato che la domanda per ottenere questo sostegno pubblico dovrà essere in ogni caso presentata alla banca presso la quale è in corso il mutuo e il modello sarà reperibile sul nuovo sito internet www.sospensionemutui.it che sarà istituito dal Tesoro. Non c'è ancora, evidentemente, però ci si sta lavorando. Lei lo sta monitorando, Presidente? Sto monitorando, sto seguendo anche in questo momento le commissioni, perché adesso l'importante è che le commissioni entro il 22 febbraio valino il parere e auspichiamo favorevole. A questo punto deve essere fatto, ma ci stanno lavorando, il regolamento attuativo di come deve essere gestita questa società che darà l'autorizzazione alla sospensione, a questo punto entra in funzione. Benissimo. E la differenza è anche di che questo fondo permette 18 mesi di sospensione e non 12 come quella della moratoria. 12. Presidente, può essere importante anche questo. Esatto, no, bisognerà anche capire quando sarà operativo, perché magari tutte le famiglie che stanno chiedendo adesso la sospensione dei mutui e che la stanno ottenendo, magari fra 12 mesi si ritrovano nella medesima condizione attuale, non hanno trovato lavoro, non hanno ancora un reddito sufficiente per pagare il mutuo e chissà che non abbiano bisogno di aderire anche a questa iniziativa di chiedere anche questo sostegno. Vedremo poi se sarà possibile. Sì, quando bisognerà seguire. Lei mi sta facendo una domanda in cui io non no, ma lo vedremo. No, ma ci mancherebbe. Presidente, ci informi su quando sarete pronti per raccontare bene ai nostri ascoltatori come fare anche per fare richiesta di questo sostegno pubblico. Perché 3 anni sono davvero non un po' pochi. Troppi. Grazie, buona giornata. Buongiorno. Arrivederci, Alessandro. Eccoci allora alle 12. Riparliamo dell'RC Auto. Ci dicono insomma che le tariffe prima o poi torneranno a crescere e noi monitoriamo insomma questa tendenza, visto che ci dobbiamo assicurare tutti con l'automobile se crescono pure le polizze. Stiamo a posto quest'anno. Ecco. Altra buona notizia. dopo i mutui. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: Guido Bertolaso indagato per corruzione dalla Procura di Firenze, al centro dell'accusa gli appalti del G8. Berlusconi però ne ha respinto le dimissioni. Vi ricordo che ne parlerà Oscar Giannino a partire dalle 9. Andiamo in Iran, dove oggi si celebra il 31esimo anniversario della rivoluzione islamica e poco fa il presidente Ahmadinejad ha detto: distruggeremo Israele una volta per tutte se verremo attaccati dai sionisti. Infine per il calcio, ieri il recupero di Serie A, l'Inter capolista ha pareggiato 1-1 a Parma, i nerazzurri salgono così a più 9 sulla Roma, più 11 sul Milan, anche se i rossoneri devono recuperare una partita. Tutto questo alle 8:34 minuti. Allora, nel nostro sondaggio di oggi parliamo di par condicio, questa legge, la par condicio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Personalmente mi viene già il mal di testa, perché io lo sapevo, la nostra responsabile dei programmi Alessandra Scaglioni ci ha già detto con mail e preannunci di riunioni: da oggi scatta la par condicio. È così. E allora ci avviciniamo alle elezioni, mi viene il mal di testa perché insomma pensare a quello che succederà ora nell'invitare i politici sarà dura, durissima. Intanto ieri, come sapete, c'è una mezza rivolta in Rai, i conduttori di talk show dicono ci stanno cancellando nell'ultimo mese, dove invece degli inviti dei politici, perché bisogna invitarli o tutti o nessuno, questo è il principio della par condicio, ci stanno cancellando tutti i talk show. È veramente un editto, un nuovo editto, il cui primo firmatario, se non si offende, è l'onorevole Marco Beltrandi, che saluto, buongiorno. Buongiorno, mi vado orgogliosissimo. Orgogliosissimo, l'autore dell'editto di San Macuto. Eccolo qua, PD radicale, che ha fatto lei l'imbavagliatore dei talk show. Marco, per sogno, questa è una menzogna di questi signori strappagati, soltanto perché questi si erano abituati da anni a fare tutti i loro comodi in Rai come se fosse casa loro, e invece per la prima volta in ottemperanza alla legge sulla par condicio, stavolta non potranno fare tutto quello che vogliono, decidere gli inviti, i temi, invitare come Floris 10 volte la stessa persona o cose di questo tipo. Non sarà più possibile. Potranno fare le loro trasmissioni, ma in par condicio. È allora, una cosa un po' diversa. Allora, sa cosa scrive oggi Pierluigi Battista sul Corriere della Sera? Invece di riequilibrare la faziosità con più voci, l'unico equilibrio è la mordacchia per tutti. E poi scrive anche questo: per ampliare l'area delle opinioni si mettono a tacere quelle che già esistono. Un'ipocrisia assoluta. George Orwell la chiamava la neolingua, proclamare il contrario di ciò che si fa. Cioè lei dice non possono più fare il comodo che vogliono questi conduttori. Sì, no, nel senso che loro le trasmissioni le possono fare benissimo, sì, negli ultimi 30 giorni. Ma come? Anzi, varie opzioni. C'è un solo piccolo problema, che se intendono trattare di politica si devono adeguare ai criteri della par condicio. Questo viene scambiato come un bavaglio e mi sorprende molto da parte di opinionisti come appunto Battista, che probabilmente non ha neanche letto e non ha nemmeno un'idea di quello che è successo in vigilanza. Però mi faccio un esempio concreto. Allora, visto che lei ha citato Floris, qua siamo a Ballarò. Floris, sì. Io sono Floris, che devo fare? Posso invitare la Bonino, candidata alle regionali del Lazio, e se voglio invitarla, di chi devo invitare anche? Allora, si tratta di questo. La par condicio non si valuta in una sola trasmissione, si valuta nell'ultimo mese, nell'intero mese della campagna ultimo elettorale. Sì. E nulla vieta Floris di, per esempio, faccio esempi, dedicare un'ora del suo programma nel fare una tribuna politica, che non significa invitare 20 soggetti, ovviamente, sarebbe una parodia. Significa magari fare un faccia a faccia tra governatori, perché questo prevede il provvedimento che è stato votato ieri. Beh, poi un'altra ora può non fare tribuna politica. Certo, lo ripeto, significa che nell'arco complessivo della programmazione RAI, quindi di tutte le trasmissioni RAI, in un mese la RAI deve dare spazio paritario ai diversi candidati. In ogni caso lei dice non c'è nessun bavaglio. Oggi, sempre per fare questa breve rassegna stampa che la riguarda, torna il gelo tra i PD e i radicali. Nel mirino di Bersani, Beltrandi, cioè che poi è lei. Ma a me non risulta fatto di essere nel mirino di Bersani, anzi le dichiarazioni di ieri di Bersani mi sembra vadano in tutt'altra direzione. Semmai sono nel mirino di qualche esagitato della commissione di vigilanza zona PD. Ah, per esempio? Anche se per non esempio il capogruppo Mori ha dimostrato totale incapacità, ma proprio totale, su ogni piano. Vabbè, che però non è qui a difendersi, ma rimanga con noi, onorevole Beltrandi. Voglio salutare il senatore Alessio Butti del Popolo della Libertà che la sta ascoltando. Senatore, buongiorno e benvenuto anche lei. Buongiorno a lei. Perché in realtà il sondaggio che noi abbiamo fatto è questo: Berlusconi ieri ha detto, fosse per me premessa, Berlusconi ha detto questo regolamento va bene perché ci sono non trasmissioni ma pollai nei quali non ci sono confronti ma risse verbali eccetera. Fosse per me però questa legge liberticida della par condicio la abolirei, o meglio vorrei una legge che sostanzialmente suona così: io sono un partito che ne so al 10%, ho una rappresentanza equivalente in trasmissione, uno è all'1%, deve essere rappresentato proporzionalmente rispetto ai voti che prende. Questa proposta di legge c'è già e c'è a sua firma al Senato, mi risulta, è vero senatore? Sì, è un pochino più complesso il disegno di legge. Come la par condicio, le ho detto che fa venire il mal di testa, insomma. Ma infatti a me spiace per il suo mal di testa, cercherò di inviare degli antinfiammatori per lenire le conseguenze di questa legge, che ovviamente saluto anche l'amico Beltrandi, io diciamo che sono un po' agli antipodi rispetto alla posizione di Beltrandi, nel senso che abbiamo sostenuto quel testo proprio per l'esatto contrario. Per far capire a tutti quanti che è la par condicio bellezza, questa è la par condicio vera. E allora, dato che la legge 28 del 2000, legge voluta da D'Alema, lo voglio ricordare per contestualizzare ovviamente, proprio per imbavagliare l'allora straordinaria performance alle europee della lista Bonino e ovviamente di Berlusconi con Forza Italia, bene, questa è la par condicio. Noi non abbiamo fatto altro e mi meraviglia molto che i soloni del giornalismo, oltre a scrivere, non si picchino anche di leggere non solo il testo della legge ma anche la risoluzione della commissione, mi meraviglio molto che questi signori non accettino che una commissione parlamentare si adegui alla par condicio. Accidenti, qui c'è un bel duello in vista, no? Tra lei, come le ha definiti, i Soloni del giornalismo. Ma certo, perché guardi, mi scusi, io penso che tutti possano evidentemente scrivere e dire quello che ritengono, ovviamente nei limiti della decenza, però quantomeno si devono anche informare. E devono leggere attentamente quelli che sono i delicati passaggi di questa risoluzione, ma soprattutto devono leggere che cosa prevede esattamente la par condicio. E poi le devo dire che se una volta tanto è a protestare è Santoro, dopo tutte le volte che abbiamo protestato noi nei confronti della sua fazzosità, beh, insomma, ci sta anche, no? Vabbè, però le hanno protestato tutti, Bruno Vespa, Floris, Santoro, tutti l'hanno annunziata, ha detto io non vado in onda se entro, se non mi date... Ce ne faremo una ragione. Se l'annunziata non va, ce ne faremo una ragione, insomma. Però vede, io trovo anche un po' di prepotenza nell'atteggiamento di qualche illustre conduttore televisivo, che innanzitutto deve capire il contesto nel quale opera, che è quello del servizio pubblico. Cioè, quegli spazi non sono di loro proprietà. E quindi, se ne usufruiscono per i loro contenitori e per fare le loro trasmissioni, devono sottostare a delle regole, che non significa il bavaglio. Ha detto bene prima Beltrandi, questa è la classica tempesta in un bicchiere d'acqua, perché loro possono continuare innanzitutto solo nell'ultimo mese di campagna elettorale, non vita natural durante, tanto per cominciare. E secondariamente loro possono comunque trattare di politica, ma ovviamente con delle regole, che ripeto, sono quelle della par condicio, per tornare alla sua domanda e poi mi taccio, è quella par condicio che io, che il PDL, sono felice che anche ovviamente il Presidente Berlusconi sostenga questa iniziativa, vogliamo cancellare. Come lei ha citato il sistema del proporzionale puro in tutte le fasi della campagna elettorale, io le dico che nella mia proposta c'è anche ovviamente una percentuale ampia di diritto di tribuna, per cui anche quelli che hanno zero percentuale e che non sono nuovi partiti possono evidentemente accedere con una quota agli spazi del servizio pubblico. Però la quota proporzionale, insomma, è quello che rappresenta, cioè lei non vorrebbe certo che un partito all'1% abbia lo stesso spazio televisivo che il partito, che Berlusconi, ecco. Esattamente, che è quello che accade in altre realtà europee. Ma il secondo aspetto che secondo me è importante è che io tolgo quella ipocrisia dei cosiddetti spot elettorali. Lei fa radio, si immagini se in questo momento lei dovesse aprire un cluster pubblicitario con 8-10 comunicati che durano 90 secondi. Sì, sì. Sa che succede che i suoi ascoltatori più affezionati e fidelizzati dopo 3 secondi girano. Addirittura in televisione gli spot sarebbero di 180 secondi. Ma io vorrei, non so, onorevole Beltrandi, lei vorrebbe tornare a quelle belle vecchie tribune politiche con Iader Iacobelli, per carità, ma gran maestro di giornalismo, magari. È il mio modello, sarebbe il mio modello. Ecco, io anch'io saluto Butti e dico che sono d'accordo su un punto sicuramente. Quella risoluzione è la prima vera risoluzione in esecuzione della legge sulla par condicio. Su questo non c'è il minimo dubbio e, come dicevo prima anche, altro che bavaglio, il mio modello sono i confronti fra candidati all'anglosassone, cioè regolamentati, senza liste politiche e pollai diretti da qualche maestro che oggi si erge a vittima di una presunta censura. Ma lei Pollai, lei parla come Berlusconi, ha votato col PDL con Berlusconi, lei è radicale, ecco, vede che qua si dice è un po' nel mirino Beltrandi. Ma guardi che se il PDL converge sul mio testo, io voto tutti i giorni con il PDL, io non ho preclusioni di questo tipo, tanto più che vorrei ricordare a chi ci ascolta che in commissione, poco prima di questa vicenda, il PD e il PDL insieme avevano votato per far fuori i partiti più piccoli dalla prima parte della campagna elettorale, fra cui anche il mio. Quindi veramente siamo al ridicolo e alla falsificazione più assoluta. Io sono o blanco o negro, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, intanto la domanda che vi poniamo, cioè abolireste la par condicio, la legge sulla par condicio va abolita, come ha detto Berlusconi, per quanto valga il nostro sondaggio, insomma, statisticamente così, 65% dice di no. Insomma, il 65% di voi vorrebbe, comunque vuole una regolamentazione sulla par condicio, rappresentazione, rappresentatività proporzionale, insomma, dei vari partiti. Voglio salutare intanto l'onorevole Vincenzo Vita del Partito Democratico, buongiorno, che ci ha aggiunto. Buongiorno. Allora, un attimo, andiamo a Andrea da Roma. Andrea, che ne pensa lei di questa par condicio? Sì, buongiorno, anch'io sono d'accordo che secondo me andrebbe cambiata. Che vuol dire par condicio? Che è la par condicio? Lei l'ha capito? Sì. Beh, guardi, è la possibilità di sì. dare spazio a tutti, però in una sì. maniera regolamentata e... più che la possibilità, la legge che impone sì. questo. Dica allora, Andrea. Ecco, io personalmente sono convinto che sia una legge estremamente rigida e quasi ridicola che andrebbe superata. Io faccio un esempio, se mi è permesso, sportivo. Poco fa c'è stato il Super Bowl che è stato fatto da due squadre assolutamente sconosciute, che tempo fa, fino a 20 anni fa, non sarebbe stato possibile che stavano lì. Questo perché negli Stati Uniti c'è la possibilità inversa, cioè chi arriva ultimo può scegliere i primi giocatori dei college e quindi avvalersi dei giocatori certo, migliori. Anche nel basket. Anche nel basket. Quindi secondo me la proposta di Berlusconi è, secondo me, io non sono assolutamente d'accordo. Cioè, secondo me ci dovrebbe essere una rappresentatività, non dico paritaria, ma comunque che dia la possibilità, quasi al contrario, ovviamente è una provocazione, insomma. Ma bello, però secondo me potrebbe essere molto interessante. Cioè, bello, dice, chi ha l'1% deve andare in TV più di chi ha il 30%, questo. Beh, secondo me ci deve essere la chance per tutti di poter dimostrare le proprie idee. Poi, insomma, io volevo con l'occasione anche salutare l'onorevole Beltrandi, che io personalmente ritengo una delle persone più lucide nel panorama. Allora, però vabbè, è una mia opinione personale. La sua opinione. Grazie Andrea. No, adesso tra poco la giro al senatore Butti. Prima vorrei l'onorevole Vita. Onorevole, che succede? Qua c'è l'onorevole Beltrandi e il senatore Butti. Allora, l'onorevole Beltrandi che ha fatto? Un editto di San Macuto? Vita. No, io non uso toni apodittici. C'è stata una discussione parlamentare in una commissione bicamerale. Beltrandi ha fatto una relazione in varie parti condivisibili, in alcune no, e in particolare credo che abbia fatto un eccesso davvero, sovrapponendo due categorie tra di loro molto diverse dal punto di vista mediatico, nonché televisivo, e cioè la comunicazione politica e le sue tribune da riorganizzare, da ripensare, da rendere più brillanti nella stagione attuale diversa, diciamo, modalità espressiva rispetto a 30 anni, 40 anni fa, e dall'altra le rubriche di informazione, talk show, che sono il nervo ormai della TV generalista, attenzione, senza volerlo, perché i fini a volte hanno la loro eterogenesi, Beltrandi è andato a colpire uno dei punti di qualità della televisione generalista, per quello ancora che è la televisione generalista. Su questo ci siamo posti, credo, tra l'altro, e me ne saranno testimoni fedeli colleghi che saluto, sia Beltrandi ovviamente sia Butti, io ho provato a fare una tra virgolette mediazione l'altra sera, che non ho capito perché non è stata accettata, che tendeva a dire si lasciano stare i talk show e si mettono nelle ore di buon ascolto, invece di ottimo ascolto, le tribune politiche, appunto reimmaginandole. Non ho capito perché non è stata accettata. Cioè, sostanzialmente, lei è d'accordo con quello che ha scritto Battista oggi sul Corriere, che nell'intento di riequilibrare le voci, l'unico equilibrio che però si è ottenuto è mettere il bavaglio, mettere la mordacchia a tutti, ha scritto. Guardi, Battista. A volte, le ripeto, le cose che accadono vanno al di là di chi le immagina. In questo caso, purtroppo, è avvenuto che alla fine l'effetto è questo. L'effetto è questo. Allora, senatore Butti, ha sentito la provocazione del nostro ascoltatore? La vorrebbe, accoglie la sua proposta, ma la vorrebbe al contrario, cioè chi ha l'1% certo. dovrebbe essere più rappresentato, perché insomma siamo in democrazia, via, cosa vogliamo? Vogliamo prenderlo? Proprio perché siamo in democrazia e non a un grande Super Bowl, bisogna tenere in considerazione ciò che la gente decide. Alle precedenti consultazioni, se c'è un partito che gode del 35, del 25 o del 20%, non capisco perché debba avere lo stesso spazio di un partito che ha lo 0,5, anche perché in Italia c'è una proliferazione di partiti dallo 0,5, come tutti sanno, ed è il motivo per cui anche recentemente, anche nell'estate scorsa, ma anche nei giorni scorsi il presidente dell'autorità delle comunicazioni Calabrò è tornato sulla opportunità di una riforma legislativa sulla par condicio, proprio che tenga conto dei cambiamenti che sono intervenuti. Ormai questa legge è veramente decisamente anacronistica sotto tutti i punti di vista. Sulla questione della mordacchia, io ora non ho ancora letto quello che ha scritto Battista, però credete, è esattamente il contrario quello che è accaduto ieri sera, cioè l'altra sera in commissione di vigilanza. Non si mette la mordacchia a tutti e si consente invece a tutti di parlare. Ah beh, certo, se poi qualcuno è particolarmente suscettibile, mi riferisco ai conduttori, e pensano che la mordacchia sia per loro, insomma, ripeto quello che ho già detto prima, non sono loro i principi del servizio pubblico. No, questo pubblico. Sì, ma tutti i giornali hanno mal interpretato, anche oggi il Sole 24 Ore, si cancellano i talk show in quel mese lì, cioè voglio dire, abbiamo preso tutti un granchione gigante, cioè stiamo parlando. Senta, guardi, dato che con l'italiano evidentemente non faccio un maestrino, però i giornalisti dovrebbero quantomeno leggere, Le leggo solamente questo pezzetto che dice che negli ultimi 30 giorni le tribune politiche sono collocate negli spazi radiotelevisivi che ospitano le trasmissioni di approfondimento informativo più seguite, cioè negli spazi, anche in sostituzione delle stesse o in spazi di analogo ascolto. Ma insomma, l'italiano ha ancora un senso pure per i grandi giornali o no? E basta leggere per capire che qui non c'è la mordacchia a nessuno e che la RAI l'avrà possibilità di scegliere. Allora, vediamo se c'è tempo per un ascoltatore. Marco da Prato, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Dunque, io volevo dire questo. A me sembra che questa polemica sulla par condicio sia, come sempre, la classica martellata sul dito che si dirà il Partito Democratico. La martellata sul dito del PD, perché? Se la sentiamo un po' male, perché? Perché mi sembra che sia assurdo che un tipo di polemica di questo tipo venga da loro, nel senso che, come diceva prima il senatore, la legge è stata voluta dal Partito Democratico per regolamentare, dall'ex Partito Democratico della sinistra, per regolamentare l'accesso alla visibilità televisiva. È chiaro che questo è un regolamento che interpreta semmai rigidamente la legge, ma è fatto proprio per mettere in evidenza che la legge è in questo modo è difficoltosa. Sì. Il Partito Democratico ci cade in pieno, protesta contro la legge e il risultato sarà anche che ci sarà più regolamentazione. Ma protesta contro la legge, lei ha messo insieme un po' di cose, comunque dice perché il Partito Democratico ha fatto questo autogol, insomma, perché qui c'è l'onorevole Beltrandi che è radicale ma è eletto nel PD, ha votato un provvedimento, è stato appoggiato dal PDL, ma Beltrandi ha detto se appoggiano una mia cosa in cui credo, ben venga che votino insomma anche il PDL, ma mi devo fermare. Grazie all'onorevole Beltrandi, senatore Butti, l'onorevole Vita, per essere stati con noi. A par condicio, votate su Radio24.it, la linea Oscar Giannino che si occupa della vicenda che coinvolge anche Bertolaso, l'indagine e la procura di Firenze, e noi ci sentiamo domattina. Grazie a Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia. Domani.